La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì di 11 dicembre, sono le 16:31, primi 13 secondi. Vi dico subito, in questa trasmissione ci occupiamo di immigrazione, perché c'è una minaccia di procedura di infrazione contro l'Italia su questo delicato tema. Vi dico subito che Focus Economia, dopo, con Sebastiano Barisoni, mi fermerò un po' anch'io, ma comunque mette al centro, come ovvio, la questione delle banche per gli sviluppi che sono in corso. La stessa cosa domani mattina dalle 10 alle 12 facciamo con i conti della Belva, che sarà dedicata praticamente integralmente a quello che sta accadendo nel mondo delle banche italiane di fronte a questa scena abbastanza inedita di una Banca d'Italia che continua ad attaccare durissimamente l'Unione Europea. Nel frattempo gli obbligazionisti protestano, ma nel frattempo sta anche cedendo il fronte di tutte le obbligazioni bancarie in Italia, proprio per questa modalità del tutto singolare con cui è avvenuto questo intervento, dopo aver detto per un anno che non c'era niente da preoccuparsi. Quindi del tema delle banche ce ne occupiamo poi nel proseguo. Sebastiano Barisoni, Focus Economia, domani mattina, ve lo dico da adesso, dalle 10 alle 12, praticamente l'intera puntata è dedicata a questo, per le vostre telefonate 800 24 00 24, anche immediatamente in Focus Economia telefonate per questo. E vi dico anche che domani mattina è in uscita un manifesto del Sole 24 Ore del direttore proprio su questi temi, con 5 punti che naturalmente non vi anticipo, per tentare di dare un ordine a una situazione che appare visibilmente essere sfuggita di mano ai regolatori italiani, a dire la verità, e che ci espone in una condizione abbastanza singolare: essere il paese che, quando le regole non erano cambiate prima del bail-in, non utilizzava capitali pubblici per risanare le banche. Di fronte al fatto che poi si cambiano le regole proprio per impedire che si continui a farlo, adesso sembra quasi che paghiamo il prezzo peggiore non avendolo fatto, e quasi invocando il diritto anche noi di farlo, quando siamo fuori tempo massimo, visto che le regole sono cambiate, e quelle regole le hanno votate al Parlamento Europeo sia la sinistra che la destra, e la Lega si è astenuta. Quindi come sempre è un po' un paradosso questa vicenda italiana. Comunque, Focus Economia dopo e domani mattina conti della Belva alle 10 alle 12. Invece oggi altro fronte aperto con l'Europa su un tema delicatissimo, perché lo avrete visto sui giornali di oggi, ma l'Unione Europea ci contesta frontalmente su un tema che è delicato, innanzitutto non solo perché da quest'estate è esplosa come l'emergenza europea prima del terrorismo, cioè quella dei migranti ed è un processo che poi si è accelerato come emergenza dopo l'uscita non concordata della Merkel, che spalancava la porta ai profughi siriani. Ma detto tutto questo, quindi, sull'immigrazione siamo in presenza di una contestazione che fa molto riflettere. Bisogna capire bene A, se è fondata, B, da cosa è prodotta, perché è relativa proprio alla quantità di persone che arrivano, i migranti irregolari, attraverso il Mediterraneo in Italia, che noi identifichiamo. Sapete che la richiesta di fotoidentificazione era uno dei fondamenti di questa disciplina comune dei vertici dell'immigrazione susseguitisi ogni settimana dalla scorsa estate a oggi, e l'Europa ci contesta brutalmente dicendo: voi state continuando ad aggirare questa norma, ne identificate pochissimi. Allora, per capire la fondatezza e il perché di questo fenomeno, A, B, nel mentre continuiamo ad avere una percentuale elevatissima di espulsi che non sono espulsi, poi di espulsi per provvedimento dei giudici di pace che non sono espulsi ma continuano a rimanere in Italia, allora tentiamo di capire come stanno davvero le cose. Allora, abbiamo come invitati, per spiegarcelo meglio, perché fin da ieri hanno la questione in mano, ne hanno scritto oggi, innanzitutto Fiorenza Sarzanini, la giornalista del Corriere della Sera. Grazie Fiorenza di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi di avermi invitata. E poi il segretario generale del SULP, cioè il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia, Felice Romano. Grazie di essere con noi, Romano. Grazie a lei per l'invito e saluto tutti i radioascoltatori, oltre che la Sarzanini. Grazie. Allora, Sarzanini, innanzitutto, qui l'Unione Europea dice che solo un terzo noi ne fotoidentifichiamo, ma siccome ti conosciamo e ti leggiamo da anni, quindi hai fonti che non sono solo le carte ufficiali, secondo te, a un primo giudizio, è fondato questa contestazione? Allora, io quel che posso dire è che questa contestazione era fondata fino a un certo punto dell'emergenza migranti, nel senso che l'Italia si è trovata a fronteggiare arrivi in maniera massiccia, vi ricorderete già nel 2014, poi quest'anno fino, diciamo, a quest'estate, i barconi che arrivavano, Ed effettivamente è accaduto, per ammissione poi degli stessi vertici della polizia, che molti sfuggissero al fotosegnalamento, per due motivi comunque. Allora, uno era appunto l'immensa mole di persone, il fatto che il fotosegnalamento prevede tutta una procedura che naturalmente rallenta la registrazione. Allora, quando tu hai una barca che arriva a Lampedusa con 300-400 profughi per volta, ne arrivano 3-4, ci sono state settimane che arrivavano 5.000 persone, quindi sicuramente il lavoro è stato, diciamo, un pochino rallentato, in alcuni casi le maglie si sono allentate, e questo è un aspetto. Dopodiché c'è stato un aspetto ben più grave, e cioè che ci sono due etnie, e sono i siriani e gli eritrei, che sono arrivati in maniera in numero molto massiccio in Italia. Noi ce ne abbiamo solo quest'anno più di 50.000 complessivamente, quasi 60.000, che rifiutano di farsi prendere le impronte digitali per un motivo semplice: il trattato di Dublino, che l'Italia da anni chiede di ratificare, prevede che quando tu arrivi in un paese, diciamo, che si chiama paese di primo ingresso, nel momento in cui vieni fotosegnalato, tu devi restare in quel paese fino alla fine della procedura. Queste persone non vogliono stare in Italia, vogliono andare nei paesi del nord Europa, vogliono raggiungere i loro familiari, sono certamente asilanti, perché ormai è riconosciuto che eritrei e siriani automaticamente hanno lo status di rifugiato. Quindi ricordiamo che ci ascolta che lo stato di rifugiato significa provenienza da paesi il cui rientro è una guerra, espongono a rischi di libertà, di vita, di sopravvivenza molto forti, e quindi naturalmente c'è uno status diverso dagli immigrati economici. Sì. Esatto, noi dobbiamo ricordarci questo, cioè quando questo è accaduto che queste persone, pur di non farsi fotosegnalare, facevano una resistenza anche violenta, nel senso che chiudono i pugni, c'è addirittura chi si intinge i polpastrelli nell'acido per non farsi prendere le impronte. Allora, il rischio qual era? O non fotosegnalarli, oppure fotosegnalarli con metodi violenti, tanto che a un certo punto la polizia ha dovuto fare i video di queste procedure, proprio per evitare poi di essere semmai denunciata per maltrattamento delle persone, per negazione dei diritti umani. Quindi diciamo che c'è una situazione di oggettivo difficoltà. A questo si aggiunge che l'Europa, io non è che voglio fare il difensore di questo governo, lungi da me, però bisogna pure dire le cose come stanno. L'Europa si era impegnata a fare una relocation, si chiama, quindi i migranti che appunto sono migranti asilanti, cioè che hanno diritto all'asilo, l'Europa si era impegnata a distribuirli in tutti i paesi e non a lasciarli solo in Italia e in Grecia, che sono i paesi del primo ingresso. Tutti bravissimi, un accordo bellissimo. La realtà è che ne dovevamo distribuire 40.000 in due anni, quindi circa 8.000 al mese. Ne abbiamo distribuiti 159 in tre mesi, se li prende nessuno. Allora, l'Europa ha fallito nella gestione del sistema di accoglienza e di distribuzione dei profughi, e quindi è un po' singolare, un po' paradossale, secondo me, che poi contesti all'Italia il mancato fotosegnalamento. Primo, perché allora che cosa è avvenuto in Slovenia, che cosa è avvenuto in Austria? Cioè, noi abbiamo assistito a un'ondata migratoria di gente che fugge dalla guerra, che naturalmente non poteva essere gestita così come è stata gestita in Europa, con gli stati che litigano tra di loro, con gli stati che non riescono a cooperare, che se tu dici ti mando 50 persone succede una cosa e chiudo le frontiere. Non c'è cooperazione. Allora, ripeto, è un po' singolare che l'Italia rischi delle sanzioni, il deferimento anche alla Corte Europea per una procedura. Non credo che la polizia non voglia fotosegnalare i migranti perché fa altro. Purtroppo c'è un'immensa mole di lavoro che non viene, non è possibile smaltire in pochi giorni, e queste sono oggettive difficoltà. Dopodiché l'Italia sarà sanzionata, però ripeto, e allora che dobbiamo dire di un'Europa che è completamente assente per tutto quello che riguarda un progetto vero di accoglienza e di assistenza a queste persone? Ma se ti dicessi, io lo sostengo da per primo giorno l'ho scritto sul Messaggero, allora all'epoca mi dissero: no, non stai capendo la profondità della svolta umanitaria della Merkel. Io dico: guardate, di solito passo in Italia per essere uno che difende la Merkel, però a me pare inevitabile che la dichiarazione unilaterale totalmente non contrattata né preannunciata, che spalancava la porta a un paese che non ha frontiere esterne europee, a tutti coloro che venivano dalla Siria, Afghanistan, eccetera eccetera, secondo me produrrà conseguenze incalcolabili, redizionerà innanzitutto la direzione prioritaria. No, aspetta, scusami, ti interrompo solo un attimo, non è così, perché questo è quello che è stato fatto passare. In realtà la dichiarazione della Merkel aveva un ben altro obiettivo, cioè lei ha detto: noi li accoglieremo. Dopodiché, nelle trattative a porte chiuse, non davanti alle televisioni, la Merkel ha detto: noi apprenderemo solo i siriani. Esatto. Perché, sì, no. Perché i siriani però sono istruiti, non c'è dubbio, ingegneri, no. E quindi ma è esattamente la classe dirigente, esattamente quello del esattamente quello che mi fece dire: questo avrà dei fenomeni rilevantissimi di impatto e voglio vedere cosa succede. E poi avvenne quello che avviene. Però ti rifaccio una domanda questa volta con i numeri, perché di preciso, come tu riporti stamattina, nella comunicazione della Commissione Europea all'Italia c'è scritto che i dati relativi agli arrivi regolari per quello che riguarda l'Italia vedono su 50.822 sottoposti al rilevamento delle impronte digitali rispetto a un totale di ingressi regolari in Italia dal 1 gennaio al 30 novembre di 144.000. Allora, secondo te la differenza si spiega per una parte, se ho capito bene, siriani eritrei, per un'altra il ritardo tecnico, ho capito bene? Sì, ma anche poi una terza parte, cioè che l'Italia ha fotosegnalato anche quelli che erano i migranti cosiddetti economici, cioè gli irregolari, sì, perché poi sono quelli più pericolosi, nel senso che sono quelli che nel momento in cui tu fai l'espulsione ma non riesci a fare il riaccompagno nel loro paese, rimangono in Italia, certo. Avere le impronte digitali è molto importante. Allora, per assurdo, è più importante... Ah, certo. Fare quello che è quello degli asilanti. Allora, fermiamoci un secondo, poi andremo più avanti alla faccenda del perché le espulsioni sono espulsioni due volte su tre sulla carta. Perché mi interessava capire dal segretario generale del SIULP se si ritrova, non tanto nei numeri, ma nella descrizione delle cause del fenomeno spiegate da Fiorenza Sarzanini. E lei è d'accordo su questo? Assolutamente sì. Concordo sulle cause, aggiungendone una. Non volendo invadere campi altrui, cioè quelli degli economisti, ma a rafforzamento di quanto la Sarzanini poc'anzi spiegava e facendo una premessa, ad oggi noi abbiamo raggiunto un dato pari all'82% degli immigrati clandestini che sono arrivati sulle nostre coste di identificazione. Il problema è di come vengono catalogate le identificazioni, cioè il prelievo delle impronte digitali, perché in realtà la lettera della Commissione Europea, sì, sostiene che noi ne avevamo fatto solo un terzo, dimenticando però che in realtà, come spiegava la Sarzanini, noi procedevamo nell'immediato all'identificazione e al prelievo delle impronte dei cosiddetti migranti irregolari, che potrebbero essere i più pericolosi per una serie di ragioni. Mentre invece coloro i quali si presentavano come richiedenti asilo, le impronte venivano prese successivamente. La somma delle due fattispecie fanno sì che raggiungiamo l'82%. Perché dico, aggiungo un ulteriore elemento, sì, a quello che diceva la Sarzanini senza voler invadere, me ne scuso, il campo degli economisti. La Germania ha scelto di prendere i siriani non solo perché sono istruiti e quindi forza lavoro sicura, ma perché le migrazioni dei siriani avvenivano con le famiglie, esatto, quindi con persone che si sarebbero stabilmente trasferite in quella nazione, andando ad arricchire il prodotto interno lordo del paese, a differenza di quelli che restano da noi, che per lo più lavorano in nero, e anche quelli che lavorano regolarmente inviano il guadagno o gran parte del loro guadagno nei paesi di origine. Quindi in realtà non sono un grande apporto alla produzione. No, sono un apporto globale attraverso le rimesse, però insomma, creano PIL poi anche loro, però è un po' così, non c'è dubbio. Ecco, però io le voglio sì, aspetti un secondo, le chiedo solo una cosa, perché poi le ridò la parola, perché tra poco ci dobbiamo fermare per un minuto per l'informazione stradale. Le metodologie di accertamento dell'identità, cioè la foto identificazione e la presa delle impronte con queste modalità che ha spiegato la Salazzarini, che lei conferma, non sono condivise nell'ambito di Frontex. Perché la Commissione Europea commette un errore di valutazione di queste proporzioni? Perché io immagino che siano condivise tra le autorità dei diversi paesi e di polizia innanzitutto, o no, Romano? No, non sono condivise. Non sono condivise. E in questo io denuncio una grave responsabilità della Commissione Europea, perché la Commissione, laddove ha voluto su altri campi, fa le direttive che sono vincolanti per i paesi, fermo restando che poi i singoli paesi devono emanare le leggi per tradurre, certo, quelle direttive in norme attuabili. Certo. Su questo, ad esempio, cioè sul procedimento forzoso per prelevare le impronte digitali, la Commissione Europea non ha mai fatto alcuna direttiva. Possiamo dire ai nostri ascoltatori che lo consideriamo tutti e tre una cosa un po' pazzesca, visto che cosa rappresenta il fenomeno di queste proporzioni? Non so, Fiorenza, non lo pensi anche tu che sia un buco clamoroso? Ma certo, anche perché, voglio dire, torniamo al discorso dell'assenza totale dell'Europa. Sì. Tu non mi puoi dire, li devi foto segnalare perché io poi li devo ricollocare, ma la ricollocazione non avviene, perché allora se tu fai solo un pezzo del progetto e non è che puoi sanzionare chi è il primo ingresso, no, certo, e non l'ultimo che invece non se li prende, perché ricordiamoci che la Commissione aveva minacciato di punire i paesi che non accettavano il ricollocamento addirittura con delle multe salatissime. Mm-mm. Tutto quello è finito nel nulla, ma di questo nessuno parla. No, è finito nel nulla soprattutto perché poi attualmente a insorgere sono stati i paesi centroeuropei con i quali, diciamo, il paese leader ha un rapporto tale che forse non se lo poteva consentire, verso altri paesi può consentire altre posizioni, per come funziona davvero l'Europa in questi anni. Un minuto di informazione stradale, poi torniamo con i nostri due ospiti su questa contestazione europea sull'identificazione dei migranti e poi sul problema collegato, forse vedremo se è collegato, quello delle espulsioni, che in due casi su tre in realtà non producono espulsioni, e vedremo perché tra un minuto. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:49 e 24 secondi. Stiamo parlando di questa minaccia di procedura di infrazione europea sulle nostre presunte inadempienze come Italia sulla fotoidentificazione degli immigrati irregolari. Abbiamo spiegato però con Fiorenza Sarzeni del Corriere della Sera e Felice Romano come qualmente in realtà si tratti innanzitutto di un equivoco fattuale dovuto al fatto che non ci sono norme condivise, ma in realtà le nostre forze di polizia, di sicurezza, dell'ordine, la spiegazione che vi abbiamo dato è che c'è sia una componente dovuta agli asilanti che vengono da quei paesi a cui si riconosce lo status rifugiato, sia un problema di concentrazione della mole di lavoro, di distinzione quindi tra le due categorie, ma sommate le due categorie, le foto identificazioni, l'identificazione precisa degli immigrati irregolari, compresi quelli economici, in realtà è superiore all'80%, non è un terzo come ci dice l'Unione Europea. Vedremo su questo quale sarà la risposta alla Commissione e alla contestazione ufficiale che il governo ha già annunciato. Ma veniamo a un altro fenomeno. Oggi c'è un altro quotidiano che lo lancia, il giornale, dice espulsioni farsa. A me non piace mai quando si usano questi termini su fenomeni di questa delicatezza, però il titolo del giornale è questo: clandestini, espulsioni farsa, 2 su 3 restano in Italia, vengono fatti alcuni casi, in particolare il caso di Rimini, 224 provvedimenti di espulsione del 2015, 87 effettivamente realizzate. E c'è una lunga spiegazione in cui si dice come qualmente i veri problemi sarebbero nei CIE, nei CARA e nella inadeguatezza degli accordi bilaterali con i paesi di provenienza fino a questo momento. Comincerei con un'opinione in questo caso di Felice Romano, il segretario generale del SIULP. Innanzitutto, sono proporzioni vere, fondate, queste che i 2/3 dell'espulsione in realtà non si traducono in altro che gli espulsi che restano in giro per il paese? Lei ci si trova in questi numeri oppure no? Sì, i numeri sono reali, però anche qui occorre fare una distinzione che poi ci riporta al ragionamento che facevamo prima. In realtà le espulsioni avallate dall'autorità giudiziaria, anche se in questo caso si tratta dei giudici di pace, magistrato onorario, sì. Esattamente, vengono effettuate perché ci troviamo di fronte a cittadini che sono identificati in modo certo. Quelli che invece non ottemperano all'allontanamento sono quelli che vengono puniti dall'invito del questore, in quanto autorità di pubblica sicurezza, a lasciare il nostro territorio. Perché c'è questo aspetto? Perché in realtà questi cittadini non hanno un'identificazione certa e di conseguenza noi non abbiamo la possibilità di trasportarli in questo o in quel paese fino a quando le autorità consolari o diplomatiche dei rispettivi paesi non ci riconoscono quei soggetti come effettivi appartenenti alla loro comunità. E qui c'è il dato che ci riporta alla questione delle identificazioni certe. Ma aggiungo, se mi consente, a quello che si diceva anche prima, tenga presente che se non c'è la collaborazione dell'individuo, e noi abbiamo fatto le prove e queste prove sono state inviate a tutti i ministri degli interni della Comunità Europea e alla stessa Commissione, il sistema Eurodac, così definito, sì, che è la banca dati, esatto, nella quale vengono versate tutte queste impronte, le rifiuta. Perché? Perché quando uno fa resistenza, l'impronta che si riesce a rilevare in realtà è mossa e il sistema non l'accetta. A questo aggiungo, nella assurdità della questione, vorrei ricordare che l'Italia è stata condannata dalla CEDU e dalla stessa Comunità Europea per aver espulso 3 tunisini contestualmente, accusando l'Italia di aver fatto deportazione di etnie riguardando 3 cittadini soltanto. Così come siamo stati condannati per la violazione dei diritti umani, perché i nostri CIE sono stati definiti non idonei a garantire i diritti umani di questi cittadini. Allora delle due l'una, e noi in questo abbiamo fatto una proposta, soprattutto in questo momento particolarissimo che l'Europa sta vivendo, sì, e cioè il rischio del terrorismo. Noi abbiamo chiesto intanto di ampliare il periodo di trattenimento dalle 12-24 ore che attualmente abbiamo, che sono consentite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad almeno 7 giorni, con il presupposto che chi si rifiuta volutamente, anche negli esilanti, di farsi prendere le impronte digitali deve essere trattenuto in un luogo di detenzione, perché diversamente questi non avranno nessun interesse a farsi. Allora io dico, ma se tu posso un secondo interromperla per chiedere, Fiorenza Sarzanini, cosa pensi di questa proposta? Ma è l'unica fattibile, perché appunto, purtroppo, appunto, cioè, non si può pensare di dire Italia guardateli tu, come, dove, mettendo, ricordiamoci che quando c'è stata la grande ondata migratoria la Francia ha chiuso le frontiere. Esatto. Sì, non c'è dubbio. A me piace spiegare agli ascoltatori, poi lo spazio per le polemiche politiche le fanno i politici, però guardate che la concretezza del problema che chiediamo alle forze dell'ordine e di sicurezza di gestire con queste norme e senza condivisione è una concretezza di cui non si riesce a venirne a capo in maniera ordinata ed efficace. Quindi io spero solo che questa contestazione europea abbia la giusta risposta, secondo me dura, da parte dell'Italia, e però posso solo abbracciare a distanza tutti gli uomini con la divisa e senza, i volontari che a migliaia e a migliaia tutti i giorni fanno dell'Italia una frontiera, speriamo la più umana possibile. Grazie a Fiorenzo Sarzanini, grazie a Felice Romano, rimaniamo qui con Focus Economia per parlare di banche. Domani mattina dalle 10 alle 12 non vi dimenticate Conti della Belva, sempre ancora su stato della crisi e le banche.